E siamo tornati. Tutto questo è incredibile. Ha dell'incredibile, assolutamente. Ha dell'incredibile essere qua a Zona Rossa dopo, non so, 3 settimane di assenza. Ma che vergogna, forse un mese, qualche mese. Che vergogna, incredibile. Ma perché veramente. Il tempo è andato all'indietro. Il tempo è andato all'indietro perché ci siamo lasciati con Tenet. Vi ricordiamo che i podcast sono disponibili sul sito di ZAM. Oggi sono le 18 spaccate, Guglielmo. Le 18 spaccate del 2 di dicembre. Non abbiamo mai iniziato in orario. Inizia a fare un freddo porco. Ma che radio? Un freddo porco. No, ma sta così bene, ma scherzi. Ma va, è così freschissimo. È così freschissimo che dormo qua quasi quasi. Però mi aspettavo da noi due, mi aspettavo una roba più strana. Cioè, per ricominciare Zona Rossa dopo questa pausa, ma poi fate come sono 3 settimane, zio, sarà un mese e mezzo. No, ma fa, sono 3 settimane, l'ho fatta io 2 da solo. Ah, è vero, giusto, bravo, perché io come al solito egocentrico di merda, pensavo che se non ci sono io non è Zona Rossa, ma in realtà, maledizione, perché se arriva lui non posso fare la prima telefonata, dobbiamo chiamare già qualcun altro. Ascolta, meno male che è sparito il terzo microfono, quindi starei lì a fare la bella statuina e basta. Dai, lui inizia a mettere giù i nomi delle persone da chiamare. Subito, immediatamente. Nel frattempo facciamo partire la sigla, una bellissima sigla per oggi che abbiamo a che fare con la paura. Esatto, una nuova sigla, abbiamo a che fare con la paura, dopo vi spieghiamo perché, intanto vi lasciamo questa nuova chicca che è tutta di Guglielmo, quindi io l'ascolto per la prima volta. Aspetta però, diciamo lo scoop, così gli ascoltatori e ascoltatrici sono carichi. Dai, e ci ascoltano fino alla fine. Diciamolo. Zona Rossa è stata soppiantata da un'altra trasmissione molto più bella. Ebbene sì. Oggi succederà che noi daremo proprio, passeremo il testimone perché ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti. Esatto, la cronaca di un fallimento lunghissimo. Pensavo che parlassi di più, non mi ero preparato a parlare, ma nonostante questo abbiamo trovato qualcuno che ha messo per iscritto delle cose intelligenti che erano le stesse cose che voleva fare noi, ma dato che Lorenzo è intelligente ma io no, e quindi l'ho trascinato in basso e mi sono fatto trascinare, come diceva mia madre. È un ragazzo che si fa trascinare, è un ragazzo che fa trascinare, non si capito come Bari, è di Bari, è Cerignola, Cerignola. Cerignola, niente, basta. Dopo ci parleremo con queste persone meravigliose che dicono delle cose belle. Tanto è arrivato Mick Gordon, vi lasciamo tutto a lui, a tra pochissimo. Insomma, una sigla tranquillissima. Siamo passati da un pezzone dei Seatbelts di Cowboy Bebop a questo fantastico Mick Gordon che io non conoscevo. Devo dire che dà la carica giusta per iniziare un programma come il nostro. Finalmente il nostro apprendista ha fatto la cosa giusta, si è preso una sedia scomoda. Complimenti, complimenti apprendista. In questo caso non so se sia colpa di Cigo o la sfiga che vuole, ma il terzo microfono non funziona, quindi ci passeremo qualche germe, sempre con le dovute distanze ovviamente. Non ti si sente? Non mi sento. No, devi parlare più forte, meglio. Io sulla mascherina. Bravissimo, così, così. Pezzente. Ah, allora, ci arrivano già dei messaggi molesti, perché da persone moleste che vogliono il reggaeton, mi dispiace, non lo avranno. Non lo avrete mai. Avrete altro, avrete tantissima musica, vi chiederemo di mettere della musica come consueto di Zona Rossa e finalmente siamo riusciti in qualche modo a formulare una specie di leitmotiv, questa nuova parola. Subentra gente, ci danno anche delle merde. Leitmotiv della puntata. No, non tu. Ci portano dei fantastici adesivi della solidarietà popolare e ci vogliono salutare. Raga. Cosa? Ciao a tutti, buon lavoro. Buon lavoro. Grazie mille. Greta è sul pezzo. Ciao Greta. Allora, praticamente Greta mi ha portato gli ultimi adesivi che esistono al mondo della solidarietà popolare Milano Sud, che verranno attaccati sui nostri preziosissimi barattoli di marmellata che hanno fatto 5 prime. Oddio! Oh mio Dio, tutto questo è incredibile. È anche incredibile il fatto che ci stanno arrivando dei messaggi vocali che noi vogliamo mandare in diretta radiofonica proprio in questo momento, però ci sta riuscendo complicato, ma ce la faremo, in qualche modo ce la faremo. Esatto. Faccio io dal mio telefono. Lo fa lui dal suo telefono, perché ci arrivano dei messaggi vocali, vogliamo mandarli in onda, quindi sentiamo un po' cosa ci dicono. Sì, ho capito, dammi tempo di aprirli, però. Cigo, impegna il tempo, dai. Cigo, impegna il tempo. Sai cos'è la puntata di oggi? Sì, lo so. Al microfono, non a me. Io l'ho saputo in anteprima, ma tipo 5 minuti fa. Vai. E dico già la domanda. Al microfono. Serata, io sono lì. Ok, allora lo dico qua. Perfetto. Dico già la domanda della serata, aspettiamo un attimo. Io prima della domanda vorrei chiederti cosa è passato in onda settimana scorsa che ci ha portato alla puntata di oggi. È stato in onda l'episodio di Q-Code sull'argomento di cui parleremo oggi, anche per il percorso che stiamo portando avanti. Certo, certo. Che è? Appunto, l'argomento di cui parleremo oggi, di cui ha parlato Q-Code in un'altra accezione settimana scorsa, è la paura. Perfetto. Stavo cercando di dire, vabbè, quello che ha detto Cigognini non è interessante, ha super cazzolato alla grandissima per evitare l'interrogazione. Ho messo l'audio, che ci è arrivato. Fermi tutti, c'è un audio che ci è arrivato, ascoltiamolo. Leitmotiv. Cioè. Ci ha corretto la pronuncia. No, ne puoi rimandarlo? Certo, quante allora, questo potrebbe essere il nostro leitmotiv della puntata. Adesso lo rifacciamo, abbiamo la riparola del giorno, non si riesce, non si può trascinare. È soltanto una volta sola. Esatto, come Natale, arriva solo una volta all'anno. Che reclamo era, Cigo? Sta tornando. Non sei nemmeno nato. Leitmotiv. Di nuovo, lo rimetti, per favore? Potremmo mettere un tasto in radio? E quando... Aspetta. Leitmotiv. Grazie Gioia. Grazie Gioia. Mandacene altri così impazzirò a convertire i file OGG in MP3 quando vuoi. Dice che non ti si sente, Cigo. Non ti si sente a sentimento, intendo. Non ti si avverte, va bene, niente. Questo microfono, ragazzi, non funziona, è palese, perché se faccio così non mi sente più nessuno, per cui nulla. Ma non è collegato. No, ma scemo di cane. Si ma no, non puoi usare lo stesso canale di quel microfono. Ah, ok, quindi sempre per fare la radio in diretta, tienimi il mixer. Cigo, tranquillo, non fare niente, non ti preoccupare. È sulla sedia scomoda. Santi, che scuse. Mi avvicino intanto. Alzami a palla. È già. E niente, non si sente la mazza. Purtroppo... Vai. Sa, provi ad alzare l'aux adesso. Niente da fare. Nulla. Niente. Cigo, non puoi parlare. Siamo bravissimi a fare le prove in diretta. Siamo gli unici che fanno le prove siamo in diretta. Siamo anche bravissimi a far sparire i microfoni, perché ce ne hanno un sacco, ma evidentemente sono spariti. Se qualcuno dell'Hip-Hop Lab ci sente, ci porti un microfono. Qualsiasi microfono. Arriva un microfono? Chiediamo un microfono. Quindi, la domanda di oggi? La domanda di oggi sarà... Non parlare a me, no, parla al microfono. È naturale. Subordinato. La domanda di oggi è lì. Racconta la prima volta che hai sconfitto una paura. Che hai affrontato. Speriamo anche sconfitto. È troppo tardi, Cigo, devi fare la domanda alla prossima persona che stiamo chiamando. Esatto, perché sta squillando già adesso il telefono. Attenzione. Ma devi occupare il tempo, il radio sì, in silenzio è una merda. Per favore, Cigo, dai. sto squillando un attimo. Eh no, devi parlare, sentire il suono nel telefono. Attivamente. Schifo. Parlaci, quindi dici qualcosa. Cosa vuoi sapere? Pronto? Buonasera. Ciao Chiara. Ciao Chiara. Ciao, bellissimo, come state? Sei su Radio ZM, lo sai, vero? Questa sei in diretta, Chiara? Sì, lo sapevo. Vedi, la nostra fama ormai, basta, non c'è più l'effetto sorpresa. Attendevo con ansia una vostra chiamata. Oh mio Dio, la devo! E dirò di più. Sai che anche noi... Ah no. Che gioia, che gioia. Come stai, Chiara? Raccontaci, dici, tutto bene? Ma tutto bene, dai, a parte il freddo e lo studio, l'università, bene. Beh, dai, effettivamente, cose che ci vogliono un po' capire, esatto, il freddo, lo studio, l'università, non frega niente lui di queste cose. Lui è sempre caldo e non va in università, non studia. Ma questo sono fandoni. Fandoni. Come lo vedi, come lo senti Cigo in radio, come ti suona? Lo sento un po' male in realtà. Fatti due domande, Cigognini. Fatti due domande. Così, probabilmente. Bravo, esatto. Ora lo senti meglio. Ora sì. Grazie, Chiara, che mi supporti. Figures, sempre Cigolino. Vai. Allora, vabbè, arriviamo. Come avrai sentito nel corso dell'inno? Non devi guardare lui, devi guardare il microfono. Adesso scavalco il tavolo e mi metto di là. Io mi metto qua adesso e parlo qua. Come avrei sentito a inizio episodio, la domanda di che, oggi è... no, non l'ho seguito l'episodio, ma Chiara, vorrei onestamente che potesse rimandato l'audio di prima, per cortesia, per sottolineare questo momento drammatico, veramente pesante. Adesso Lorenzo lo ricaricherà al volissimo. Questo è quello che ti meriti. Qual è l'argomento? Non lo può sentire, tra l'altro, effettivamente. No. Siamo degli idioti. Adesso Cigo ti spiegherà qual è l'argomento. Vai, Cigo. Comunque, l'argomento di oggi è la paura. Ok? Quindi, e di conseguenza... Perché la paura? Devo rifare lo spiegone. Sì, Chiara. Giustamente. Perché settimana scorsa è dato in onda un episodio di Q-Code in cui l'argomento, come... più volte nell'ultimo periodo, perché è una serie di incontri, potremmo dire, riguardo a questo argomento, che è la paura. Sì. Quindi, visto che lì era messo anche in accezione, diciamo, no, non è vero. Niente, Chiara. Mi sento confuso. No, non è confuso, è il microfono che non funziona. Esatto. Lui ha fatto un discorso super sensato. Adesso con Guglielmo te lo ripetiamo. Era il microfono che saltava. Sì, Cigognini che aveva le corde vocali che si intrecciavano, evidentemente. La cosa è semplice, facciamola. Non c'è nessuna web series di Q-Code. Non c'è tra l'altro. Cioè, questa cosa non si capisce. Q-Code un episodio. Cos'è? Una serie a puntate? La trovi su Netflix? È un quotidiano. Ok, è un magazine edito da Prospero Editore. La questione è che, secondo me, tra poco compare Angelo Miotto in radio e ci fracassa la testa. Esatto. Lui fa delle robe serie, mica come noi. E ringraziamo Leonora che ha presentato la cosa, tra l'altro, per noi. Detto questo, la domanda è semplice: quando è la prima volta che ti sei sentita di aver superato una tua paura? O comunque di averla affrontata? Ok. Non ti mettiamo fretta, il silenzio in radio è terribile. No, allora, la prima volta, cioè in questo momento non saprei dirti, la prima che mi ricordo è stato entrare a lume superando la mia paura dei topi. Ma fantastico! Perché lume è un'occupazione di roditori, no, questo non si doveva dire. No, brutto, cancella. Togli il rec, Lorenzo. Salutiamo i compagni e le compagne di lume. Poi forse potremmo chiamare qualcuno di lume, dai. Gulli, ti dico una cosa. Leitmotiv. Scusa, Chiara. Sì, direi questo. Questa sì. Vabbè, va bene. I centri sociali servono anche a questo, a superare le proprie paure. Sì. Grazie, diciamo, Chiara. Decisamente. E da lì in poi non c'è stato più problema. Oddio. Non direi. Però quella volta però, è stata superata. È stato un inizio soddisfacente. Molto interessante, bene, grazie Chiara. Adesso a questo punto, Cigo, ti potrei fare la domanda di rito, che è complicata. È complicata la domanda di rito perché tu devi fare una domanda, ma gli dai anche la risposta. Cosa chiediamo noi di solito quando finisce una intervista, Cigo, una telefonata? Beh, una canzone che si vuole ascoltare in radio. Esattamente, in questo caso, Chiara, guarda, ti faccio un esempio. In questo caso, Chiara vuole ascoltare dei Rage Against the Machine, Siege Now in the Fire. Sleep Now in the Fire, giusto Chiara? Giustissimo. Grande Chiara, grazie Chiara. Zona Rossa va avanti, ciao Chiara, grazie mille. Quindi se andate a lume, mi raccomando, affrontate i topi, perché Chiara ce l'ha fatta, ce la potremmo fare tutti e tutte. Questi sono i Rage, questa è una canzone che ho scelto io. No, che ho scelto Chiara. Ovviamente. E la sto ascoltando da una settimana, quindi grazie Chiara per avermi letto nel pensiero. Ci sentiamo fra pochissimo. C'è telepatia. Attenzione, ma no, due devono essere. Due, facciamo, ci sono due settimane tra adesso e Natale. La prossima, boh, non mi ricordo che numeri sono, ma quella dopo probabilmente già faremo la presentazione del libro. Quindi dai, vai, lanciami un tema come l'ultima volta. L'ultima volta non è finita bene. L'ultima volta non è finita bene, c'è la registrazione anche di quella. Ma dai, non è vero, l'ultima volta per me è venuta benissimo, una bellissima grafica, però effettivamente. Cigo, dai, tu che sei giovane e innocente, proponi un tema fra riguardo a una grafica da fare per Zona Rossa settimana prossima. Una grafica da fare per Zona Rossa settimana prossima, un tema. Un'idea, un tema, un concetto, un'immagine, un oggetto, una persona, qualsiasi cosa. Una persona potrebbe. Un leitmotiv. Mamma mia, e no, secondo me no. Sarebbe veramente tosta. Tantissimo. Magari qualcosa, uno dei simboli di Zona Rossa, il telefono la fiamma, in realtà. Come? Zona Rossa. Cosa? A tema inutilità. L'inutilità. L'inutilità. Ma come fa a mettere in grafica l'inutilità? Cigo, per piacere. No, è una roba concettuale, certo. le cose ricercate. L'ozio però, l'ozio sì, l'ozio puoi metterlo, riprendiamoci il tempo della nostra vita. Il tempo non dovrebbe essere denaro. Esatto, esatto. Cigo ci ha dato un'ottima offerta. Grazie, Cigo. Grazie, Cigo. Forse super lo stage non pagato. Che poi deve essere anche il tema della puntata. Dai, attenzione, attenzione. Ci sta. Parleremo dell'ozio. Beh, si può fare. Dai, è un bel tema. Un bel tema. Va bene, siamo d'accordo allora? Va bene. L'ha detto. Ha firmato. Sigliamo con una mano. Me lo segno sul mio post-it invisibile. Bravo. Quello, esatto. Bravo, quello, bravo. Quello. Fra, quindi scegliamo noi la canzone per te perché oggi ci piace così. È una canzone che tu hai scelto e non lo sai ancora, in realtà. Sì, l'ha scelta. Sicuramente, l'ha scelta. La cosa bella è che sappiamo che ascolterai e la dedichiamo alla data che casualmente il libro ha scelto per l'uscita. Già, che è anche la data del compleanno. A quelle simpatiche persone vestite tutte uguali. Insomma. Che è anche la data del compleanno dello Zambi Pop Lab. Ma ne parliamo dopo. Una telefonatina. Tra l'altro, colgo l'occasione per ringraziare Gigi perché questo grazie duo Gigi. Me li ha fatti conoscere lui. Grazie, Gigi. Settimana scorsa e questa mi ha fatto venire la pelle d'oca. Ragazzi, ascoltatela bene, mi raccomando. Una canzone sopra. Dai. Molto, molto. Ciao, Fra. Ciao, ragazzi. Ciao. Tutto. Pronto, ragazzo? Sì? Oggi ho marcato una divisa dell'arma, con un ferro ho fatto un buco su una testa di cazzo. Mi cercava della coca, ho fatto in tempo a buttarla. L'ho venduto a un generale, ma ho pensato l'ammazzo. Quanti ragazzi rinchiusi in una caserma, qualche spirro che li tocca e poi gli spacca la testa. Io non credo nello Stato, credo in una beretta. C'ho il caricatore pronto, punto alla camionetta. Ma, ho fatto una cazzata. Ho preso una puntata, testa in giù, poi l'ho filmato. Lo sbirro parla e si ritrova impallinato. Scusami tanto ma sto già di fuori, fogli di vendetta contro i cani dei padroni. Fanno i forti con il piombo chiuso nei caricatori, ma li sparo da lontano e mando alla famiglia i fiori. Signora gente, vengo a farmi la perquisa, un grammo del tuo fegato sopra la carta visa. Lo sbirro è sempre fascio perché ha scelto quella vita, ha fede nello Stato, il naso rotto da una riga. E fanno bang, dentro la macchina veloci per le ronde. Ma faccio bang, questa divisa non rincaserò stanotte. Scusami tesoro ma mi sento in guerra, non mi prendono alla Sony perché non parlo di sperma. Sti compagni vogliono sentire roba un po' diversa, mentre appicci un'altra canna metti play su questa merda. Vado a fuoco mentre rubo questa borsa Gucci, sento lo spettro di Cookie, dice uccidi tutti. Amo stare in barricata, metto in mano un Uzi, sono ancora sopra il grappa e lancio bombe ai crucchi. Ragazzi, non ci faccio vedere i documenti perché qua non va bene. Lei ha 50 grammi di marijuana e non va bene. E fanno bang, dentro la macchina veloci per le ronde. Ma faccio bang, questa divisa non rincaserò stanotte. E fanno bang, dentro la macchina veloci per le ronde. Ma faccio bang, questa divisa non rincaserò stanotte. Grazie P38, grazie Gigi. Sobrissimi. Grazie Fra, che salutiamo. Ci hanno richiamato, perché succede anche questo. Sì. Succede anche questo, ci richiamano. E noi li richiamiamo ancora. Pronto. Buonasera. Ciao. Benvenuto su Radio ZM, carissimo caporedattore. Si dice non ero direttore. Direttore. Scusa. Madonna, che miseria. Cosa siete, in tre? Sì. No, in realtà è 4. Combricola miserabile, userei dire. Combricola a casaccio, perché poi c'è gente che schifa Zona Rossa, ma poi entra a gamba tesa nel programma e... Per portare un po' di livello, per portare un po' di livello, esatto. Comunque, chiedo scusa ai milioni e miliardi di ascoltatori, avevamo in 3 microfoni, ma 4 in stanza, e quindi magari in 4 stiamo conducendo questa trasmissione, quindi se si vuole avvicinare ai microfoni... Quindi un quartetto noi... di miserabili e miserabile. Esatto. Miserabili. Solo so, tre, po'. Una persona è rispettabile. Che non è Cigo. Esatto. Okay. Esatto, va bene. Carissimo Matteo, come va la vita? Come stai facendo? Dici. Bene. Oggi sono di riposo, quindi. Ah, la grandissima. Posso dirvi che siamo solo al 2 dicembre e già. Si possono usare termini scurili su. Si possono usare. Questa radio. Si possono usare su questo programma, attenzione. Non già i coglioni pieni. Attenzione. lavorando nel commercio posso dirvi che ne ho già i coglioni pieni. Ci rendiamo conto, ci rendiamo conto, ma ti siamo vicini, per questo ti chiamiamo. Musica di merda da più di 10 anni, tempo uguale a se stesso. Ma chi? Ma chi è che la mette? Scusami. Clientela, boh, non troppo lucida. Usiamo, cerchiamo di usare degli eufemismi. Ma quindi... si sta sfogando sul suo lavoro. Ah, ok, quindi al lavoro avete della musica di merda da 10 anni. Che è il DJ? Sì, a Natale più o meno sempre la solita musica. Madonna, cosa fanno? Mettono un disco di Michael Bublé a Christmas? Ma magari. Pure magari, magari. Pure magari. Oddio. Cosa può esserci di peggio, no, mi dico? Esatto. Cose un po' più... un po' più antiquate, diciamo. Ah, madonna, cos'è? Il coro gregoriano. Potremmo fare un programma su questo. Tu registra la almeno musica. Almeno darebbe un tocco di classe. Esatto. Registra la musica, no, che non metto, so, musiche natalizie tra gli anni 20 e gli anni 40. Sempre uguali. Beh, insomma, ci spiace, Matteo. I compagni verranno a liberarti da questa cosa orrenda. E abbiamo con noi però un giovane stagista che si sta scaldando finalmente in questa fredda giornata di dicembre e vuole farti una domanda. Perché ovviamente tu non sai la domanda della puntata qual è, non stavi ascoltando. No, chiaro, ovvio. Effetto okay. Sorpresa, effetto sorpresa. Sono come Conte dalla Gruber, non preparo le domande. Sempre caustico il direttore, mamma mia. Prego, so che è un momento delicato perché è il direttore, capisco l'emozione, Cigo. Sono abbastanza emozionato. Ce la puoi fare. Tra l'altro studi scienza della comunicazione, quindi magari tu il direttore potresti avere anche un futuro assieme. Però io lo dico qui come mai e lo nego anche. Lo dici e lo neghi. Esatto. Allora, la domanda di oggi è: raccontaci di una volta che hai dovuto affrontare una tua paura. Senti che risata, mamma mia. Maligna. Quale delle tante volte? La tua scelta, quella che senti più tua. Allora, fammi pensare un attimo, perché sono così tante le paure. Oddio, sono un po' impreparato. Siamo noi. Zonarossa è così, Zonarossa ti spiazza. Lasciati spiazzare. Sì, allora. Beh, non lo so, litigi a lavoro con i capi, direi che vabbè, non sono paure, ma forse sono robe in cui uno ci sguazza. Non so, forse paradossalmente posso dirvi una roba, riflettevo, cioè non è affrontare una paura ma è trovarsi in una situazione che è un po' diverso, però l'altro giorno nella piazza della regione riflettevo che era la prima volta da molti autunni che non mi capitava di vivere un autunno senza scendere in piazza. Era probabilmente la prima volta che lo facevo con una di meno ed era una roba che non mi succedeva dai tempi delle superiori, probabilmente, quindi parliamo di 20-25 anni fa, quindi probabilmente una roba ribaltata. Non è una paura, ma è una paura provocata da una mancanza. Devo dirvi che un vuoto. Manca molto la piazza, la possibilità di stare con i miei compagni a fare delle cose e a dire la mia. Però è una mancanza grossa. Ti senti in qualche modo che la stai affrontando questa cosa? Sì, insomma. Ci si organizza e si cerca di passare la nottata, come si direbbe a Napoli, però è complicato. È veramente complicato, cioè lentamente mi sto rendendo conto che è veramente una componente importante della mia vita e insomma ne sento abbastanza la mancanza, e infatti ero molto contento di aver potuto scendere in piazza sabato scorso, anche perché lavorando poi mi è molto difficile tante volte poterlo fare. Parole forti, ti ringraziamo un sacco perché mi è piaciuta moltissimo come risposta. Sì. Hai visto un che un po' un'arte del sofismo e un misto tra sofismo e arrampicata sugli specchi. E ti riesce benissimo. Esatto, devo dire, esatto. Che ti riesce benissimo. Anni di pratica. Noi anni non siamo neanche all'altezza di guardarti dal basso. Proprio noi non siamo, ma siamo venuti a cercarti perché chi accompagni compagno non è mai solo o sola, e esatto. Quindi hai visto, tu ti sentivi solo in questo autunno senza cortesia, sono venuti 3 deficienti, 4, però la quarta persona non è deficiente, a venire a cercare. Stiamo riflettendo anche che potremmo farlo più spesso di chiamarti. Esatto. Siete molto cari compagni, compagne, compagno. E vi ringrazio. Non so se volete fare altre domande, discorrere di, non so, metafisica, ma, guarda, geopolitica. Penso, oh, io sono sempre disponibile. Penso che se esatto, ma cioè, nel senso, se lui ha voglia, potresti fare una mezz'ora di editoriale settimanale su Z-Time. Grazie, Matteo. Ciao, ma ci vediamo l'ora e mezza. Quando vuoi, quando vuoi. Dai. Puoi staccarti dalla costola di Zona Rossa. Mim on radio. Cioè, dai. Mi viene le lacrime agli occhi solo a pensare. Cioè, cosa c'è di più naturale? Poi pensa a quanto potresti guadagnare. Madonna. Farà milioni di miliardi. Ma chi ha parlato di soldi? Di pacche sulle spalle. Come siete capitalisti? Chi ha parlato di denaro? Esatto. Pensa a quanto potresti guadagnare in spirito. Ma in credibilità ne guadagnerei o ne perderei, secondo voi? Secondo me molto ne acquisiresti. Allora, ne hai talmente tanta che è meglio che venga tolta un po'. Dai, ok. La distribuisco a voi, magari. Esatto. No, è una missione impossibile. Tra che stare parlando al microfono molto difficilmente. Però noi vorremmo fare questa cosa un po' con un velo d'arroganza. A parte il fatto che ci sono programmi che macinano ascolti importanti, non questo. Fanno 50-60 ascolti, le ribelle, un programma serio, vero. Non come tre noi scappati di casa. Ginnastica. Per stare d'attesa, ginnastica per stare d'attesa. No, che infatti Milano in Movimento sponsorizza. Esatto, esatto. Ma non Zona Rossa. È giusto così. È giusto così, ma va benissimo. Adesso c'è anche una casa editrice che forse tu conosci, ma non so se magari per caso nel privato conosci anche qualcuno che fa parte di questa casa editrice. Prospero Editore ha scelto Ozam e ha fatto su Radio ZM anche delle dirette, delle presentazioni di libri. Non so se questo vuole dire che Radio ZM sia uno strumento valido, però insomma, cioè nel senso, sono queste due cose, programmi seri come Le Ribelli, ginnastica per sali d'attesa, app, cioè un bel palinsesto. Certo, ragazzi, comunque devo dirvi che siete meglio della Jalapas negli anni 80. Madonna! Radio Popolare. Usciamo, andiamo via. Sta fumando il mix. Teo, stai esagerando, stai decisamente esagerando. Ribadisco, quando stava su Radio Popolare negli anni 80. Andremo a prendere le registrazioni, esatto. Confronteremo. Esatto. Ti faremo sapere. Va bene, è giunto il momento finale. Ridiamo la parola al nostro stagista, perché come vedi noi siamo proiettati verso il futuro. Questo è un ulteriore spot a fare in modo che Milano in Movimento venga a fare un editoriale settimanale di mezz'ora lunedì. Grazie, Matteo, quando vuoi. Allora, di solito noi chiediamo una canzone a chi abbiamo intervistato. Oggi però le abbiamo già, quindi oggi hai scelto. Vai, adesso piango. Abbiamo già scelto The House is a Circus. Non leggo fino a là. Degli Arctic Monkeys. In realtà l'hai scelta a te, ma non lo sapevi. Quindi grazie, Teo. Bellissima. Grazie di avermi accontentato con questa scelta che vi ho proposto. Grazie, Matteo, sei stato gentilissimo. E ci risentiremo. Ci vediamo in piazza il 12, forse. L'ha detto, bravo! Assolutamente sì. Forse a Cernusco il 5. Assolutamente so. Sì. Assolutamente facciamo un momento, sì. Facciamo un momento spot, per favore. Raccontaci cosa c'è il 12 in piazza. Che Macio prima lavorava, non poteva dircelo. Ma il 12, vabbè, non dovrei dirlo, ma c'è l'anniversario della strage di Piazza Fontana, nonché l'anniversario dell'omicidio di Saverio Saltarelli, che fu ucciso nel primo corteo dell'anniversario della strage del 12 dicembre 70. E 5 ci sarà una mobilitazione antifascista a Cernusco, perché i fascisti, che spesso e volentieri sono anche affaristi, hanno deciso bene di aprire una libreria a Cernusco sul Naviglio, nascondendosi, come spesso fanno, dietro vari nomi per mascherare la loro essenza di fascisti. Merde. Bastardi. Ecco, e no, niente. Ecco, una roba, diciamo che Milano in Movimento l'anno prossimo potrà riservarvi interessanti sorprese. Da gennaio si parla, vero? Ma tra gennaio e ottobre. La Madonna. Vabbè, noi iniziamo. Diciamo che potremmo riservarvi sorprese su due anniversari abbastanza interessanti. Attenzione. Forse uno ce l'ho in mente. Io confermo, perché ho sentito delle voci di corridoio che dicevano di qualche sorpresa. Se ci pensate confermo bene, potete capire tutti e tre comunque. Quattro. Gennaio, luglio e ottobre, direi. Gennaio, luglio, ottobre. Già. Forse abbiamo già capito, ma non rovineremo così la suspense e la sorpresa. Nel frattempo, ti aspettiamo lunedì prossimo per editoriale mezz'ora, ragazzi. Ciao. Grazie, Teo. Grazie. In russo, la grafica però. Sarà in russo. Preparata stasera da Macio. Grazie, Teo. Va bene. Ciao. Ciao. Ciao. Allora, faccio un piccolo, una piccola nota a piè pagina. Io questa canzone la dedico alla mia casa e ai miei coinquilini. Intanto facciamo dei cambi d'abito. Come i vecchi mi metto le calze sopra perché c'ho freddo. Senti, senti Guglielmo, senti che crema. Attenzione. Che livello. Zona grazie, rossa. Grazie Marco, grazie, ciao Marco Carol. Ciao Marco. Cigo, allora, volevi dire qualcosa? Cosa volevo dire? Prima, volevo quando dire? Mi avevo staccato i microfoni e bestemmiato dicendo ah, mi ero dimenticato, volevo dire una cosa. Che conosco, no, è che conoscevo sta canzone, vai, non vai, che volevo dire una cosa. Dici, dici. Ti dico che non c'è tanto da dire, la conosco e non l'avevo riconosciuta. È incredibile perché fuori onda mi ha fatto un discorso bellissimo su suo padre, sulla musica, su tutto. Appena attacchiamo i microfoni. Ah, no, vabbè, sì, che apriti, ho avuto la fortuna. Apriti, esprimiti. Grazie a mio padre di vedere anche in concerto gli Arctic Monkeys. Bene. Mi ricordo che anche se non ero grandicello, è stato un gran bel concerto. E quindi niente, grazie papà che mi hai permesso di salutiamo assistere. Il padre di Cigo, ciao ciao, come si chiama? Luca. Ciao Luca, ciao Luca. Mi raccomando, fagli sentire Zona Rossa anche se ci provi, ma non funziona, mi sa. No, decisamente meglio di no. Comunque Cigo, ti apri quando io non ci sono, vado già a prendere la giacca perché ho freddo. Dovrai forse farmi delle domande, darmi delle risposte, evidentemente. Andiamo avanti con le telefonate e entriamo brutalmente in una cosa tipo alla Tenet, perché queste sono le persone che verranno dopo in radio. Esatto. Ma le stiamo andando a prendere prima per portarle qui adesso. Ed è una roba alla Tenet perché è drammatica, perché abbiamo capito che ci hanno superato a sinistra di tantissimo, anche a destra di tantissimo, anche al centro. E glielo vogliamo riconoscere. Esatto, ci hanno fregato. Pronto? Ciao, buonasera. Sono Guglielmo. Pronto? Ciao, mi senti? Pronto? Pronto? Ciao Chicco, sono Guglielmo di Zam. Pronto? Ah, mi sa che il tuo jack non funziona. Ai. Sì. C'è qualcuno che non ci sente. Non ci senti, Chicco? attacca, parlaci tu magari, perché sì, esatto, niente brutto, niente. Tra avanti. Pochissimo torneremo forse su questi schermi. Vabbè, facciamolo noi lo spoiler. Fondamentalmente, vai. Come sapete, Radio ZM è sempre a caccia di nuovi programmi, di compagni e compagne, persone qualsiasi, chiunque volesse fare un programma è il benvenuto. Il programma di Teo Colò partirà appunto settimana prossima, ma c'è un altro programma che, se siamo fortunati, ci comportiamo bene e riusciamo a fare tutto in tempo, partirà settimana prossima. È un programma molto interessante perché vai Cico, oddio, no, sto scherzando. Io sono all'oscuro di praticamente delle metà. Cioè, è stato nonostante... molto interessante il fatto che queste persone abbiano loro proposto un format per un nuovo programma che si avvicina moltissimo, esatto, al nostro format. Che qual è il nostro format? Quindi quello delle chiamate a casa inaspettate, nonostante loro lo facciano bene. Ma lasciamo il microfono a chi veramente ne sa a palate di questa cosa. Quindi spoileriamo il programma dei ragazzi, prego. Ma non è vero, cioè, la, no, sì, vabbè, ho letto, sono l'intermediaria e, Al microfono, e sto parlando al microfono. Vai. E niente, è un programma molto carino, fuori dal comune, è il titolo, è il nome. E sono delle persone che si sono avvicinate alla radio per interesse e passione e hanno proposto appunto questo format che vuole andare un po' fuori dal comune, oltre gli schemi, parlare di attualità ma senza pesantezze, con molta leggerezza e, sì, e con serietà però, a differenza di altri programmi. E intervisteranno tutta una serie di persone, gruppi, si parlerà anche di calcio ma in una maniera anche molto politica, anticapitalista e antisessista, parleranno di persone che fanno lavori self-made, un po' tirando, cioè, fuori dagli schemi, insomma, poi non lo so, ecco, insomma, il programma l'abbiamo letto tutti quanti, loro sono stati molto bravi, molto seri. E però non si sente il jack, quindi Chicco non capiva cosa stesse succedendo. Salutiamo Chicco e mandiamo a fanculo la Apple, perché ci ha veramente rotto vagina, coglioni, ovaie e tutto, perché non si può andare avanti così con questi dispositivi che non funzionano o hanno problemi. È successo anche con Franco. Quindi niente, praticamente, appunto, come dicevamo, noi spariremo nell'etere, non ci sentirete mai più, non ci vedrete mai più. E molto spesso diciamo anche bugie, quindi possiamo andare avanti. Esatto. Con questa tiritiera per un po'. Ma perché non pensiamo a riformulare Zona Rossa? Questa è un'occasione per noi. Potremmo diventare Zona Rossa non morta, cioè tipo lo zombie di Zona Rossa che aleggia e fa cose. Però in quel caso lì vorrebbe dire peggiorare ulteriormente il livello. Non è possibile. No, è questa possibile, non si può fare. Solo in un modo è possibile, implementando lo stagista. Oppure potremmo fare a te fermo, Lorenzo, guardami negli occhi. Nonostante siamo a 7 metri di distanza. Ti vedo. Potremmo fare le puntate di Zona Rossa andando all'indietro nel tempo, in inversione. Io sto male. Dai, facciamo vedere Zona Rossa. Tutto questo è incredibile. Preparatevi perché le registreremo off air e le manderemo al contrario. Va bene, ma scusatemi una domanda semplice: ma queste persone non le possiamo chiamare da un altro telefono? Le possiamo chiamare da un altro telefono. Se vengono mandate il contatto, il numero di telefono, gli scrivo e dico: guarda, ti sto chiamando. Se è una persona giustamente che non risponde ai numeri sconosciuti, ci sta anche, cioè magari gli spieghiamo: ciao, sono io, ti devo chiamare perché, e magari ci risponde. Lo possiamo fare alla brutta col viva voce, Giulia, se vuoi. Però nel frattempo possiamo chiamare lui e parlare di un altro. Abbiamo nominato un altro compleanno che accade a breve. Abbiamo nominato un altro compleanno. Ci stanno ascoltando. Giù di sotto c'è una cassa che manda della musica e sono le vostre brutte voci. Adesso c'è qualcuno che si sta sorprendendo del fatto che la... Povero collettivo comunque che ci tende zona rossa così. Oh, buonasera Orso. Buonasera. Ciao, ma senti, noi siamo... benvenuto su Zona Rossa! Benvenuto su Zona Rossa! Allora? Tutto bene, tu? Bene, dai, stavo ascoltando. Infatti adesso è un casino perché praticamente ero connesso con la cassa. Madonna, no! Dalla cassa e non da telefono. Qui c'è il telefono vicino all'orecchio, ma praticamente non ci parla. Ok, vabbè, ma ci piacciono queste cose, ci piacciono. Riusciamo a dare fastidio ai nostri unici ascoltatori e ascoltatrici. Siamo, esatto, dei geni. A sovvertire i dispositivi, sì, intrecciarli, sì, sì, tra di loro. Sì, sì. Ascolta, ma noi abbiamo capito, prima che Cico ci faccia la sua domanda da stagista, abbiamo, come si dice, sappiamo che il 13-12 è un importante compleanno, che quest'anno verrà festeggiato in maniera molto particolare. Vorremmo che tu ci parlassi di questo compleanno. Sì, è l'ennesimo compleanno del laboratorio pop. E conseguentemente di Rock and Roll Boston. Ed è l'ottavo compleanno, mi dicono. E niente, pensavamo di organizzare qualcosa per festeggiare questi 8 anni. Non abbiamo ancora capito precisamente cosa vogliamo fare, se un qualcosa tipo un finto concerto live, una session di commenti alle prossime ore del disco in radio o entrambe le cose, così sta, magari qualcosa di studio, di diretto dallo studio, però qualcosa faremo nei giorni di sabato e domenica. Che storia, che storia. Cioè il Zambia Pop Lab diventa grande, cioè già 8 anni, è un'ometta, è un ometto, è, cioè sta già iniziando a fare delle cose grosse. Sì. Che storia. Sì, sì, poi vabbè, adesso è stata un'associazione di delinquere, cioè di fatto è finita, però per fortuna, finalmente abbiamo ancora tempo per crescere ulteriormente. Yeah, yeah, yeah. Ma cioè, non so, a questo punto dai, lasciamo la domanda al nostro stagista. Ci prova, ci vabbè, prova. Lo stagista Gigi si lancia. Non ci deludo il stagista. No, volevo dire che è anche più facile perché la sai già, dato che ci stavi ascoltando. Quindi Gigi, quindi Gigi, raccontaci di quella volta che hai affrontato una tua paura. Allora, boh, mi ricordo una volta che ero tipo, forse che per dire mai una cosa del genere, e c'era un po' il mare grosso e mi stavo abbastanza pegando addosso, perché inizialmente tutte le volte che riuscivo a tirare fuori la testa dall'acqua per prendere fiato, ma arrivava la mega onda in face e quindi ricominciavo ad annaffare e niente, quindi stavo cercando di uscire disperatamente. Quando quasi ce l'avevo fatta, ho visto un mio caro amico che in realtà non vedo da 200.000 anni, ma spero che stia bene, ciao Davide, e niente, quindi sono tornato indietro per cercare di salvarlo nella mia testa. In realtà poi siamo rimasti tutto un'altra mezz'ora a soffocarci cercando di uscire, però poi ce l'hanno fatta, siamo entrambi lì. Questa volta lì mi sono proprio detto, no, figa, ma con cura, ci vado, e poi ci sono andata. Minchia, mi è successa la stessa identica cosa. Che bella storia. La stessa identica cosa, uguale, anni fa al mare. Infatti se mi avessero fatto questa domanda avrei risposto la stessa identica cosa. Paura di quando stavo affogando al mare. Grande Orso, grande, grazie mille. Prego, saluti. Aspetta, che c'è l'ultima cosa che deve fare lo stagista, sennò poi non accumula abbastanza punti esperienza e non sale di livello. Sì, no, lo stagista potrebbe essere più reattivo, è colpa di Lupe, comunque non diremo il perché espressamente, no. Ma è colpa sua. No. ci ha abbandonato così. Vabbè, è andata così. Vai, annuncia la canzone. Quindi la canzone che stiamo per ascoltare, scelta da Orso. Esatto, che ringraziamo. Che ringraziamo. È Freedom Sound di Roland Alfonso e Descalitis. Scatalitis. Scatalitis. Mamma mia. Tutta per voi. Ce la godiamo tutta. ma che spettacolo. Ringraziamo tutta la band che è venuta a suonare questo pezzo fantastico di reggae, ska per Skinhead. Bar giù, distanze, mascherina, grazie. Ma birra a fiumi, in perfetto stile. Sempre, sempre, sempre, Skinhead. Assolutamente. 19:22, zona rossa, 2 dicembre 2020, Lore, Cigo, Gulli, Giulia. Incredibile. Lo scrivo nel podcast. Firmiamo la rossa, condanna a morte. Chiamiamo coloro che ci finalmente porranno fine a questa sofferenza demente. Buonasera. E buonasera. Buonasera, ciao a tutti e tutti quanti. Ciao Chicco, qui è Radio ZM, lo sai già perché ti sei stato avvisato poco fa. Siamo in quattro, c'è anche Giulia che ci sente. Ciao Giulia. Ciao Chicco. Ciao. Allora, questa telefonata in realtà è un trappolone. Noi adesso vi imbruttiremo per qualche minuto perché voi ci state per uccidere. Non è assolutamente vero, cioè considerate che noi non abbiamo mai fatto radio, né tantomeno ridere, né tantomeno piacere a nessuno. Sì, ma siete persone intelligenti e si vede da quello che scrivete, maledetti, si vede che siete bravi e brave. Ha detto che facciamo ridere, non ha capito proprio lì. Esatto, siamo ridicoli in questo senso lì. No, ridere in maniera simpatica, in maniera coinvolgente, come vorremmo fare un pochino tutti quanti. No, comunque in realtà noi stiamo venendo lì da voi adesso. Sono loro che vengono a prendere noi adesso, cioè è incredibile. È proprio così. Aspettiamo proprio fuori. Oh, fantastico. Arriviamo lì, esatto. No, per dimostrarvi che non siamo proprio in grado di fare niente, veniamo lì appunto a imparare a fare quello che fate voi, quindi è mezzo finto che... Come si dice. Spero che la lezione non venga recepita proprio come lo facciamo noi, ma come andrebbe fatto, perché noi non lo facciamo come andrebbe fatto, ma lo facciamo un po' così. Però dai, comunque, ancora. Intanto, visto che non siamo stati neanche in grado di raccontare la bellezza del programma che avete in mente, sì, più o meno, potresti farci un po' di pubblicità. Sì, allora, stavo parlando proprio poco fa con il mio coinquilino tentando di spiegare questa cosa, ma non sono stato particolarmente in grado. Però diciamo che l'idea nasce dal fatto che spesso e volentieri ci troviamo a fare delle conversazioni, anzi facciamo parte di alcune conversazioni che poi a un certo punto arrivano a un momento morto e tu vorresti essere quella persona figa che dice quella cosa: ah raga, ma sapete che ho sentito alla radio, ho letto su internet, o mi ha detto mia cugina che c'è questa roba fighissima, hanno fatto il primo concerto virtuale di Dua Lipa, hanno fatto il, non lo so, primo posto a Milano dove sistemano i computer gratis, hanno fatto questo e quest'altro, e non c'è mai una fonte attendibile dove prendere queste informazioni. Ecco, noi ci piacerebbe fare un po' la parte di quelli che vi raccontano queste informazioni, questi fatti, questi progetti, queste cose interessanti da poter poi giocarvi con i vostri amici, con le vostre compagnie, senza chiedervi nessun soldo, quindi senza nessuna subscription, senza, a meno che poi ovviamente vogliate darci dei soldi ben volentieri, però non è questo l'obiettivo. Cioè, ma raga, figata atomica, cioè tu ascolti la radio e hai cose fighe da dire alla gente. Noi ce lo sogniamo, sì. Esatto, completamente. E dici il nome del programma? Del programma che è ancora da definire al 100%, però dovrebbe chiamarsi Fuori dal Comune. Fuori dal Comune perché sia io che Margherita che Marzia, che appunto saranno le mie compagne in questa avventura, siamo di fuori, cioè veniamo da fuori Milano, tendenzialmente verso la provincia di Varese. Hai capito? Esatto, sì, siamo di Legnano, di Varese e di Gazzada Schianno, quindi assolutamente posto meraviglioso, di provincia, fantastico. Yeah. E fuori dal comune, noi parlare di cose fuori dal comune e magari con gente fuori dal comune, quindi questo qua sembra un po' una banalità, perché però non ci veniva niente di meglio, però sì, ecco, questo qua è un po' il pensiero che abbiamo fatto, e non sappiamo quando andremo in onda, non sappiamo se andremo in onda, ma speriamo di... Questo è molto zona rossa, ecco. questo è molto zona rossa. Questo l'avete proprio copiato. Sì. I problemi tecnici che avrete invece sono sicuramente come le ribelli. Solo loro, i problemi tecnici. Noi eravamo qua, spingi il tasto e funziona tutto. È incredibile. Te la stanno tirando, Chicco, perché sono molto invidiosi del vostro programma. Loro sono dei ciambracconi e si sentono molto minacciati. Da maschi alfa quali sono. Finti, fake, quindi, perché non siamo nemmeno quelli. Perché neanche quello riescono a fare. Ma sarà tutto molto bellissimo e vedrai, vedrete anzi, tutto molto facile. Normalmente la radio comunque ha un'assistenza H24, sì. Si chiama redazione Radio ZM su Telegram, esatto. Quella risponde sempre comunque qualcuno o qualcuna che dà una mano e risolve problemi, incolla cavi, fa ripartire internet, queste cose così. Comunque vi aspettiamo. Esatto, vi aspettiamo. Io vorrei dire una cosa personalissima mia. Io quando ho letto il concept, perché ci avete mandato un concept, cioè la serietà di questa gente è andata in depressione. Sono un po' depresso perché ho letto e ho detto cazzo, venire stasera. Era esattamente la roba che avevo voluto fare io, ma l'avete scritto voi. Niente, Ubi Maior minor al cesso. Così. Allora io gli ho spiegato. Sta male con zona rossa, puoi scegliere passare da noi, nel senso. Adesso arriva lui, fa il acquisti. Simpaticone. Ma che ti spiego i tasti invertiti, Guarda, esatto. Guarda che questo programma l'ho fatto fare schifo io, hai capito? Ero io che li facevo fare schifo. Lorenzo ci tentava. Se vuoi abbassare la qualità del tuo, puoi prenderti. Esatto. Cioè, il calciomercato insegna che ci sono anche degli errori che si fanno molto spesso nell'acquisire giocatori. Quindi attento. Sì, potrei essere il tuo giocatore che ti porta alla serie. Ma una cosa che voi non avete è lo stagista. Noi abbiamo lo stagista è qui per dire una cosa. Eccomi, sono qui per farti la domanda della puntata. Bravo! Attenzione, quindi ti chiedo di raccontarci di quella volta che hai affrontato una tua paura. Ho affrontato la mia paura? Esatto. Io ho avuto paura degli aghi. Ok. Tengo a fare il prelievo del sangue 2 volte l'anno, che è molto importante, andate sempre a fare i prelievi del sangue. Ho il terrore, cioè la notte prima non dormo e mi viene da svenire ancora prima di entrare in ambulatorio. Quindi direi che è una paura che affronto biannualmente. Oh mio Dio, ma la persona meravigliosa! Sei proprio un piri. Sei un esempio. No, davvero, bravissimo, cazzo, grande. Non è facile, Ah no, per niente. Per i tatuaggi no, proprio per l'ago, ma non so se è una questione di ho paura che la dottoressa mi buttino dentro delle bolle, mi facciano scoppiare il cuore, o non lo so qual è la paura, però ho proprio paura forte. Cioè, se io vedo un film con una scena di una siringa, io devo girarmi dall'altra parte, altrimenti o svengo o vomito. Non hai mai visto la scena di Pulp Fiction, quella bellissima del petto? È lì un po' diverso perché sembra più una coltellata, non so, è un po' diverso, però la questione, l'immagine, luci un po' soffuse, ago che entra nel braccio, ora mentre ve la sto raccontando mi battono un po' i denti. Madonna, e l'affronti 2 volte l'anno comunque? Sì, l'affronti 2 volte l'anno comunque. Bene. Ho anche un po' paura di morire, però quello è una conseguenza del fatto che vado a fare gli esami del sangue, quindi... Cigo, non ancora affrontata per fortuna. Lo avverti lo spessore umano di questa persona? Assolutamente sì. Infatti sono un po' meno triste che qualcuno bravo prenda il nostro posto. È così. Ora quando vedete vivo vi renderete conto che sono un coglione, quindi potete andare tranquilli. No, allora, se questa è una sfida la accettiamo. Se questa la accettiamo, vediamo chi è più coglione. Adesso non c'è spazio per tutti. Adesso voglio vedere chi è più coglione. Potrebbe essere una bella sfida. E comunque ti ringraziamo anche per il brano che ci hai suggerito. Sì. Perché oggi ci avete già mandato i brani, quindi grazie mille. E ci vediamo fra poco, insomma. Fantastico brano. Sì, ma ovviamente da una persona del genere non poteva uscire un brano migliore. Assolutamente. E il brano è Il piatto è servito, RCP, Cesar One feat. DJ Libero. Ciao Chicco, a dopo. Yay. Cesar One, DJ Libero, RCP, shake it. Senti. Ogni confine è finto, un po' come Edgar Allan. Se lo stato affonda ogni menzogna viene a galla. Leggo un muro che parla, la musica balla. Seguo ogni sbarione, Seth MacFarlane. Passano 30 anni, odio ancora, penso positivo. Resto chiuso in casa solo se mi penso positivo. Sveglia alle 7, vite caffè, non prendo il ritmo. Come si mette? Sono malato, questo è il sintomo. Assuefatto dal primo sentimo. Intorno vedo solo persone assenti e so. Non hanno prospettive, sembra manco gli interessi. No, testa hip hop, studio i testi da anni bro. Li sento che dicono, minchia che curriculum. Lo leggono mentre mi reco al patibolo. Ci vedo limpido come un dipinto mo. bella sensazione, peccato duri un attimo. Sento rap che è lingua morta, ma non è un classico. Buone vibra faccio scorta, quante ne mastico. Ogni tanto la mente corre come Maicon. La società ti dice di non mostrarti mai stanco. Lavora, produci, consuma, crepa. Il mondo che propongono ha ben più di una crepa. Il racconto che ci fanno e la realtà non corrispondono. Come fare a dirlo? Beh, basta guardarsi intorno, bro. Vedo ruoli imposti, fare da paraocchi. Vedo tutti i profitti nelle mani di pochi. Da soli siamo tutti per forza fuori dai giochi. Nelle crew trovare tutti i possibili sbocchi. Libertà o giustizia, i due piatti della bilancia. Il bosco è compromesso, non solo la mela in marcia. Vivo disilluso, quindi meglio tagliare corto. RCP 32 barre sulla cassa del morto. Ok. Siamo su due binari che non si incontrano mai. Mi stai sul cazzo come pagare il canone Rai. Senti questa merda e facca al solito tran tran. DJ libero, hip hop producer, quinto Dan. Rapper che non le chiude, è tipo Kryptonite. Contagio RCP, si chiama campionite. Scoviamo sample nascosti in tutte le tracce. Siamo investigatori, seguiamo le tracce. Meme alla console, non è Mario Bros. Fosse per i soldi, rap caverna boss. È da mo' che niente in dolce, non è Hansel e Gretel. Scrivo nelle barre le mie ansie segrete. Ad esempio penso troppo, sto a disagio nelle feste. Sono il tipo sorridente che non si diverte. Sarò pure divertente ma non si direbbe. Sono il tipo diffidente che ti accoglie a braccia aperte. Sto chiuso in un armadio che rosicchio scheletri. Scrivo barre nella notte, cerco il buio che mi ottenebri. Stop all'ego trip, sto coi piedi per terra. Microfono in mano in uno scenario di guerra. Tengo saldi nervi fino a fine giornata. Responsabile di ogni barra scritta e reccata. Le chiudo e mi espando come quando la grindi. Mi accollo tutto quanto in ogni lingua, quindi fuck off to all the cops I have to cope with. Ciò che sogno è il crollo della white supremacy. Niente ha senso senza un senso di appartenenza. C'è chi sente un certo senso di onnipotenza. Parla un sacco pure in modo elaborato. Peccato, a 30 anni non ha mai lavorato. Dice libero, Cesa One, il piatto è servito. Salutiamo da lontano alzando il terzo dito. Yeah. Rap caverna posse. Fanculo. Che pezzone. Questa è una chiamata di servizio. Stiamo cercando di valorizzare i nuovi progetti che sono in corso a ZAM in questo momento. I nuovi bellissimi progetti che, esatto, ci esaltano tantissimo. Quando mi risponde faccio tipo una piccola buttada, no? Una butta tipo, oh, stiamo stampando. Pronto? Oh Francesco, le stampanti sono impazzite, stanno stampando lì Kalashnikov. Francesco, corri. Corri Francesco. È fuori controllo la situazione. Non è possibile. No, non è possibile. Sei in diretta su Radio ZM. Sei in diretta dai tuoi vicini di stanza. Ciao caro. Bastardi. Esatto, siamo proprio quello. Lui non se l'aspettava di certo, secondo me. No, no, mi sa di no. No, perché... no, anche perché stavo mangiando, quindi era impossibile. Giusto così, è giusto così. Sei dentro il programma più molesto di tutta la radio. Attenzione però. Va bene. Esatto, scusate, non volevo passare sopra Lorenzo, è vero, siamo il programma più molesto di tutta la radio. Ha ragionissima quando lo dice, ma sentite in sottofondo i suoni. Perché la cosa bellissima è che Francesco è un compagno di ZAM che ha famiglia. Grande. Grandissimo. Eroe. Eccola, sentila. Madonna. E vabbè, allora quindi raccontaci un attimo cosa fai tu dentro ZAM, così... Visto che passi ogni 10 minuti davanti, esatto, alla porta della radio, prima o poi devono venirti a prendere. Ci sputi sulla porta. Non ero preparato, stavo mangiando. Proverò, aspetta, proverò a spostarmi così eventualmente... Gentilissimo. Faccio un piccolo preambolo. Chiediamo un scusa. Preambolo. No, ma ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro. Io in ZAM mi occupo di fare, faccio stampa 3D, modellazione, verniciatura, prototipazione, di tutto di più. Questo è il quarto millennio avanzato, ZAM 4.0 proprio nel futuro. Il diciamo che il centro sociale è 3.0. Fantastico. Attenzione. Meravigliosa. Quindi a questo punto vorremmo fare una domanda molto semplice. Secondo te come si modificheranno i rapporti tra laboratori in uno scenario futuro della produzione in cui la produzione industriale verrà frammentata attraverso la stampa 3D? Ma allora la stampa 3D rimane comunque una prototipazione, cioè non credo che la stampa 3D al momento riesca ad essere, cioè, a essere trasformata in una reale produzione. Vedi, perché quindi... Francesco è fantastico, perché la super cazzo la rilancia. Quindi la stampante 3D è anticapitalista. Certo. Madonna, la stampante 3D è anticapitalista. È incredibile, certo. È incredibile. Non è per la produzione in serie. Non è per la produzione in serie, no, è una prototipazione. Poi per la produzione in serie rimane ancora capitalizzata, diciamo, mettiamola così. E quindi il lavoro che stai facendo a che livello è adesso in questo momento, Azzam? Sta litigando, ma allora, sta litigando con la corrente al momento. Beh, no, con la corrente sì, un po' sto litigando con la corrente. Appena facciamo pace io e la corrente... No, dai, diciamo che si lavora bene, piano piano, sto prendendo posto e posizione, diciamo, dai. Spazio di lavoro? Miglioriamo a vista d'occhio. Esatto, spazio di lavoro amplissimo, freschissimo. 180 metri quadri di loft. Freschissimo, quello freschissimo sicuramente, infatti sono andato a comprarmi già la stufa. Bravo, bravo. E mi stavo diventando vecchio con tutto quel freddo. Però il freddo tempra, quindi potenzialmente sono ringiovanito. Sicuramente aiuta le macchine, perché il caldo caldo non gli fa bene, magari. No, per niente. È un po' il contrario, però... No, sto facendo cazzate. Come la rossa, 19.38, Radio ZM. Allora, la cosa bella di questa radio, carissimo, è che abbiamo uno stagista, e questo stagista oggi è stato formato per farti la domanda della puntata. Puoi rispondere anche in 2 secondi e tornare poi alla tua vita, che noi abbiamo interrotto brutalmente. Benissimo. Esatto. Vorremmo sapere di quella volta che hai affrontato una tua paura. Di quella volta che ho affrontato la mia paura. Esattamente. Cioè, nel senso, io affronto così quotidianamente le mie paure. Vabbè, una che ho affrontato è stata, diciamo, quando mio figlio è caduto da sopra un traliccio, diciamo, dei giochini quelli lì del parchetto. Quella è stata una paura, perché è stato portato con una potenziale commozione cerebrale. Devi essere forte, devi stare lì, devi guardartelo sperando che vada tutto a posto. Mamma mia. Mamma mia. Grazie mille. Ci mancherebbe. Guarda, di storie così quante ve ne potrei raccontare nell'alto dei miei 36 anni. Portati benissimo, tra l'altro. Grazie, gentilissimi, grazie. Comunque, se c'è lì qualcuno che vuole parlare al telefono, lo accettiamo, senza limiti di età. Non c'è problema. Perché devi coprire un altro ora e mezza di radio. No, però sentiamo che qualcuno voglia esprimersi. Se vuoi ti posso parlare, ti passo mia figlia e ti continua a raccontare cose che potenzialmente solo i bambini potrebbero capire. Secondo me sta parlando di marxismo, secondo me è così. sì, credo. È produzione, di sì, marxismo, sì. È produzione 3D. Credo di sì. Adesso ha tirato sul braccio sinistro, Attenzione, io non voglio, è un segno. Io non voglio segno. Accostarla, diciamo, su un determinato orientamento politico. Però comunque... Va bene, dai, allora cioè il nostro stagista deve dirti un'altra cosa e così poi ti lasciamo libero. Va bene. Esatto, che come tu ci hai comunicato prima di che ti chiamassimo, hai scelto una canzone e questa canzone è... Simmerdown... Sì, proprio quella avevo detto. Esatto, Simmerdown dei Wailers. Sto diventando cieco. Sì, io proprio quella lì dei Wailers, proprio quella lì volevo, sì. Però c'è un problema, nel senso che ce l'hai detto di mandarla, ma noi non l'abbiamo sentita bene e adesso invece arriva. Invece sì. Grazie mille. Grazie. Ciao Francesco, buona serata. Ciao. Ciao. fantastico. Ringraziamo tutto fantastico. Ringraziamo anche Sean Prince che sta arrivando a darci un tappeto musicale, che stavano spiegando come si facesse. Tanto ci piacciono i tappeti. Ci piace fuori onda, le cose troppo sotto i tappeti. Un fuori onda pregno di roba, pregno, cioè, di informazioni, già quasi una formazione. Quanta conoscenza c'ha Lorenzo dentro? Me ne voglio troppa, a squartarlo con il coltello e tirargliela cazzo fuori. Va bene, andiamo avanti, zona rossa 19:44. Andiamo avanti. Andiamo avanti a finire. Andiamo avanti a finire. Però in realtà ci sono altre canzoni che vorremmo proporvi, perché abbiamo avuto la fortuna di avere, come si chiama il tuo Andrea amico? Andrea. E ringraziamo Andrea, ringraziamo i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici. Vi ricordiamo gli appuntamenti settimanali, che sono, saggista, prego. Vai. Al microfono, grazie. Grazie. Cosa si fa in questo spazio? Allora, dai, cosa si fa in questo spazio? Continuano l'attività del microfono. Bravo, Lorenzo. Stavo dicendo al microfono. Vorrei denunciare un po' di bullismo, però, in questo programma. Ho capito. Male il mio Piri. Stagista sottopagato, giustamente. Anzi, non pagato. Non fare non fare sindacalizzato, merda. No, lungi da me. Vabbè, comunque, continua l'attività delle brigate. Abbiamo. Abbiamo il presidio di cui abbiamo già accennato anche prima, sabato 5, sì, a Cernusco sul Naviglio, contro quell'apertura dei covi di merda, di un covo di merda, e altre, vabbè, trasmissioni varie. Arriva Natale, Natale. Vuoi dire qualcos'altro? Sant'Ambrogio, Bello, Sant'Ambrogio. Quale mi sto perdendo? Ti suggeriscono anche, dalla regia. Cioè, dalla regia ti suggeriscono anche. Dici. Però secondo me non lo so se. Sta se mettendo in discussione il suggerimento della regia. Io non lo so se lo voglio dire. Lo vuole dire che... invece. Cos'hai capito? Sì, però qua non possiamo fare un programma con i bisbigli all'orecchio. Allora. Parla nel microfono. No, è proprio perché avevo capito bene che non volevo dirlo. Comunque domenica alle 5 ci sono le ribelli. Attenzione, domenica alle 5 ci sono le ribelli. Abbiamo una preview su cosa c'è questa domenica? Assolutamente a sorpresa. Ok, assolutamente a sorpresa. Domenica a sorpresa. Stile zona rossa. Non vorrei dirlo, però stile zona rossa. Allora, nel ringraziare Andrea abbiamo deciso di rimettere tutte le tracce che sono passate oggi nell'auto DJ, quindi per accompagnarvi verso questa bellissima serata. Ricordate che Radio ZM è anche musica a riproduzione casuale senza pubblicità H24, o almeno ci proviamo. Io vorrei dire un'ultima cosa, speriamo che il Sole dei Caraibi sciolga un po' questa neve e ci riscaldi tutti. Andrea, se ci stai ascoltando, prima o poi tu verrai obbligato a fare un programma a conduzione musicale sulla Black Music, perché ne sai troppo per non fare questa cosa. Assolutamente sì, questo è un invito, noi ne elargiamo pochi, ne riceviamo tanti, però questo è veramente un invito, sarà anche in busta chiusa ovviamente, con delle sorprese dentro. Esatto. Saggista, dici. Pensi di essere stato un bravo stagista oggi? Diciamo che col tempo sono migliorato. Ma sei stato fenomenale, dai. Ma sì. Poteva andare perché, meglio. Sì, perché sei Giulia di fianco, guarda. Faccio tanto il modesto. Grazie a tutti e tutte, è andata e buona serata. Ciao. Ciao.